E allora bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, siamo a Entropia Massima, la trasmissione del lunedì sera di Scienza e Tecnologia che vi tiene compagnia ormai da 18 anni su questi temi, e oggi è la volta del ciclo tecnologico, quindi oggi parliamo di tecnologia, parliamo di digitale, parliamo di estrattivismo dei dati. Quest'anno ci siamo dati questo titolo per il ciclo tecnologico, non che gli altri anni avessimo insomma fatto qualcosa di meno, cioè, abbiamo sempre parlato un po' di questo, quest'anno gli diamo una maggiore enfasi, e oggi proprio per parlarne abbiamo invitato con noi, abbiamo un ospite, un esperto di Big Data Analytics che ci saluta. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, grazie Davide dell'invito. Assolutamente, grazie a te, e direi che possiamo iniziare con il tema odierno, in cui insomma abbiamo preparato per voi un po' di cosette che proveremo ad esplodere nella prossima oretta circa. Tutto in realtà parte da una iniziativa legislativa interessante da parte dell'Unione Europea, e poi si sviluppa in qualche modo. Vediamo di che cosa si tratta. Sì, esatto, Davide. È interessante e molto attuale parlare di questo pacchetto di iniziative legislative, come le chiamavi tu, che hanno avuto un'approvazione preliminare al Parlamento di Strasburgo. Perché sono importanti? Perché queste iniziative... si tratta di due leggi, una chiamata Digital Services Digital Markets Act, l'altra Digital Services Act. Quindi DMA e DSA sono fondamentalmente il primo esempio di regole, di norme che una istituzione importante come l'istituzione europea, come l'istituzione europea, si danno per cercare di perimetrare l'attività dei principali attori che hanno inventato e che propongono l'attuale economia digitale basata per l'appunto sul tema, diciamo, di questo ciclo di puntate. Il tema è l'estrattivismo dei dati. Allora, l'aspetto interessante, diciamo, vedremo poi in dettaglio, un pochino più in dettaglio, entreremo nel merito di ciascuna di queste due proposte. Ma prima, diciamo, degli aspetti, se vogliamo, più pratici, l'aspetto che sembra interessante di questa approvazione è un aspetto più di natura più filosofica. Perché? Perché iniziative di questo genere ricordano che l'economia digitale basata sull'estrattivismo dei dati ha un lato scuro, okay? Quindi non è tutt'oro quel che riluce. Ma esistono, in contrapposizione se vogliamo a quegli aspetti utopici che sono largamente propagandati, ormai spandierati da oltre un ventennio, esistono degli aspetti che determinano una tensione. Qual è questa tensione? Da un lato la componente economicista che vende e che rappresenta in qualche maniera l'ultima incarnazione di un capitalismo neoliberista che vende concetti come l'efficientismo, il produttivismo, no? La convenienza, la comodità, tutti aspetti che sono estremamente apprezzati nella società attuale. Ma dall'altra c'è una componente, se vogliamo, distopica. Quindi a livello di istituzioni democratiche possono esserci rischi di erosione di libertà fondamentali, di principi costituzionali, di diritti dell'individuo. Allora, cercare di intervenire con degli interventi come questo pacchetto è importante perché ricorda a chiunque che esiste anche un'altra faccia della medaglia. Beh, chiaramente stiamo parlando del tema dei dati degli utenti, i dati che sono identificativi di un utente e che riguardano vari aspetti della vita delle persone che accedono ai sistemi digitali, quindi le abitudini, le preferenze, gli spostamenti, c'è una enorme quantità di dati che produciamo, è proprio il caso di usare questa parola, produrre dati, no? Semplicemente accedendo a questi sistemi, e questi dati fino ad oggi sono stati, vogliamo dire, acquisiti, diciamo più propriamente rubati, perché il termine esatto forse è rubati, a tutti e tutte noi, perché non ci è mai stato chiesto il permesso di utilizzarli. Sono dati che si sono ritrovati nei log dei loro sistemi e con i quali hanno pensato di farci qualcosa. Sì, diciamo che fondamentalmente, se vogliamo, il tema è questo, no? Ed è la base, diciamo, del concetto di estrattivismo dei dati. Qual è il meccanismo di funzionamento? Lo richiamiamo, diciamo, per gli ascoltatori, no? Brevemente. Il tema è molto semplice. Oggi l'economia digitale, che ha un apprezzamento di mercato come null'altro mai nella storia dell'umanità, si basa essenzialmente su una semplice trasformazione. Quindi c'è una materia prima che sono i dati esperienziali di ciascuno di noi, che vengono raccolti e trasformati attraverso algoritmi di analytics in modelli predittivi. Quello che viene venduto sul mercato è la previsione di comportamenti e, in seconda battuta, l'induzione di comportamenti. E quindi è tutto qui il tema. L'obiettivo, diciamo, dei principali attori che hanno, ripeto, inventato e proposto questa economia è quello di allargare sempre di più la raccolta di questa materia prima. Ed è per questo che noi oggi abbiamo un'esistenza online, per esempio, che è completamente legata all'utilizzo di account, di credenziali per l'accesso a questo account. Quindi diciamo che la prima cosa che dovevano fare per far partire questa nuova economia digitale era renderci identificabili. Esatto, ma questo per un motivo anche tecnico, nel senso che banalmente, no, se io voglio mettere a punto un modello predittivo che riguardi i comportamenti di persone, non so, di sesso maschile, avere soltanto i dati miei e tuoi porta, diciamo, a una capacità e un'accuratezza del modello estremamente bassa. Viceversa, se io riuscissi ad avere i dati di tutte le persone di sesso maschile, no, sul pianeta Terra, avrei una differente capacità di performance, diciamo, da parte di questi algoritmi. Quindi la sfida fin dall'inizio è stata quella di avere più utenti. Quindi l'elemento fondamentale, quello che oggi traina, no, l'economia, è quella di estrarre sempre di più materia prima. Questa materia prima è gratuita, perché non viene pagata, quindi un elemento, diciamo, un po' perverso e assolutamente peculiare dell'attuale economia digitale è il fatto che la materia prima non si paga. Questo non accade in altri segmenti di industria o in altre economie, no? Questo è un elemento. La seconda è che, come diceva Davide, non c'è un permesso esplicito, almeno non c'è stato per tanti anni un permesso esplicito, quindi materia prima gratuita e acquisita in maniera assolutamente libera, senza, diciamo, chiedere il permesso. Allora, qual è l'elemento? Quindi attraverso questo che cosa è possibile? Attraverso questo è stato possibile costruire tutti i servizi di cui noi oggi disponiamo, che sono servizi fantastici da un punto di vista tecnologico. Sono diventati imprescindibili per noi. Tuttavia, cosa accade? Che questa disponibilità di dati è potenzialmente utilizzabile in maniera altra, ok? Perché sapere tutto di tutti può portare a distopie come, ad esempio, meccanismi di sorveglianza, ad esempio, ok? Allora, l'aspetto interessante è che lo stato in cui ci troviamo oggi è uno stato di tensione. Per cui, da un lato, c'è una forza di natura economica che spinge per avere sempre più dati riguardo sempre più aspetti della vita di ciascuno. Dall'altra, è sempre più chiaro ormai che queste potenziali derive distopiche mettono in difficoltà i principi fondanti delle società democratiche: le libertà costituzionalmente protette, i diritti. E quindi l'elemento di interesse di questo pacchetto di iniziative, che in questo momento è stato appunto approvato a Strasburgo e che quindi è ancora in itinere, ovviamente, ma c'è stata una larghissima approvazione, è stata approvata a maggioranza, è incoraggiante perché riconosce questo aspetto di potenziale distopia. Lo certifica, lo certifica e cerca, come vedremo tra breve, dando alcuni dettagli, di porre un argine a questo. E certo, e il rischio quindi qual è, detto in breve? Abbiamo parlato di monitoraggio dei comportamenti, ma anche di induzione dei comportamenti. Quindi da un lato posso sapere come le persone si comporteranno, e questo è oro per il marketing, ma anche oro per i sistemi repressivi, come abbiamo visto. Ma c'è un elemento ancora più pazzesco in questa che chiamiamo capitalismo della sorveglianza, no? Noi lo facciamo perché seguiamo comunque un po' il testo omonimo di Shoshana Zuboff. Okay. Ed è proprio questo meccanismo dell'induzione, cioè è possibile cambiare le opinioni delle persone conoscendo le persone e sapendo usare i giusti espedienti, i giusti toni, i giusti... Sì, beh, diciamo che un elemento interessante quando si parla di derive distopiche, beh, noi le osserviamo ormai già da un po' di tempo. Se vogliamo, gli ultimi anni hanno semplicemente accelerato un processo che era già in atto, no? Pensate alla radicalizzazione delle posizioni, alla polarizzazione sostanzialmente della società, che oggi è con molta più difficoltà in grado di dibattere, diciamo, democraticamente temi. Okay. Questo ancora una volta è in parte, in larga parte anche, questa situazione, questa deriva, il risultato di un funzionamento algoritmico. Se io addestro un algoritmo per premiare il fatto che un utente cliccherà un certo contenuto, sia esso un contenuto pubblicitario piuttosto che un contenuto di qualsiasi natura, beh, l'algoritmo imparerà sostanzialmente a capire dalle abitudini, diciamo, di consultazione di ciascun utente quali sono i contenuti che interessano a quell'utente. Profilerà l'utente, cosa farà? Lo profilerà e continuerà a propinare gli stessi contenuti, accentuando, quindi mettendo, se vogliamo, in risonanza ancora di più le posizioni di ciascuno. Quindi questo elemento, diciamo, è un elemento che va esattamente in linea con quello che dicevi te, cioè in qualche maniera l'induzione o accentuare, diciamo, dei comportamenti, accentuare delle posizioni. In genere si citano sempre un paio di casi molto chiari, che sono peraltro diciamo arrivati alla ribalta della cronaca mainstream: il caso Cambridge Analytica e l'elezione di Donald Trump. Okay. Quindi la Brexit e Donald Trump, no? Queste due elezioni che hanno in effetti cambiato un bel po', direi, no? La geopolitica mondiale, e che sono state diciamo indotte da uno di questi big tech, no? Si chiamano anche GAFAM spesso, no? E quindi Google, sì, Amazon, no, gli Facebook, acronimi dei cinque Apple, principali. Microsoft, peraltro sappiamo che ormai Facebook si chiama Meta, e quindi dobbiamo cambiare il GAFAM in GAMAM. E sono stati indotti in questo specifico caso proprio da Facebook, e questo è, ripeto, è ribalta della cronaca, niente di più. E sono casi abbastanza importanti e studiati, ma ce ne sono ovviamente molti altri che passano sotto traccia. Del resto, cos'è più desiderabile per un capo? Poter prevedere il comportamento dei suoi sottoposti e indurre addirittura questo comportamento è il massimo, no? Mentre parlavi mi veniva in mente un altro aspetto, diciamo, ovviamente collegato. Ecco, il fatto del ruolo che questi grandi player, questi grandi attori, diciamo, svolgono. D'altra parte sono loro, come dicevo, i proponenti, hanno inventato loro questa nuova forma, diciamo, di economia, e hanno ovviamente interesse a tutelarla e a promuoverla in ogni momento. Allora, tu parlavi di Facebook, che oggi si chiama Meta. Allora, perché si chiama Meta? Allora, il fatto di chiamarsi Meta è un classico esempio di come viene venduta l'attuale economia digitale al grande pubblico. Diciamo, durante la prima parte dello scorso anno, una dipendente di Facebook, Frances Haugen, ha rivelato, come whistleblower, tutta una serie di pratiche assolutamente esecrabili di Facebook, cioè ha semplicemente confermato qualcosa che comunque tutti sapevano, cioè Facebook mette il suo profitto al di sopra di qualsiasi altro aspetto, no? Quindi cosa fa? Viene attaccata perché non fa molto per cercare di contrastare questa polarizzazione delle informazioni, questa radicalizzazione delle posizioni, eccetera. e di fatto, diciamo, pur accettando e dichiarando di fare qualcosa, poi in realtà non fa assolutamente nulla. Allora, nel momento stesso in cui emerge questo whistleblowing che evidenzia una distopia, cosa fa Zuckerberg? Accelera sull'utopia. Facendo cosa? Raccontando al mondo che da qui in avanti il suo obiettivo sarà investire sempre di più in tecnologia che porti al metaverso. Quindi, mutuando, diciamo, questo termine dalla letteratura cyberpunk degli anni 90, di Stevenson coniò questo termine, lui distrae l'opinione pubblica dicendo: badate, adesso si va da quest'altra parte, no? E quindi mette a tacere, no, quanto più rapidamente possibile, degli aspetti, se vogliamo, deteriori. Allora, per tornare, diciamo, al punto iniziale, il valore di una norma come quella e delle norme che si stanno approvando cerca ancora una volta di richiamare l'attenzione sui rischi associati, no, e che fanno un po' da contraltare ai benefici che sono chiari e apparenti a tutti quanti ed evidenti per tutti. Bene, diciamo che abbiamo messo un bel po' di carne sul fuoco, ci concediamo una prima pausa musicale. Ascoltiamo un brano di Il Nano, signor K, LHHM, Desertica Realtà. Benvenuto nella tua desertica nuova realtà. Yeah. Signor K, Il Nano, yeah, Lab Meticcio. La cima dell'abisso è la fortezza di metallo, spirale che s'arrampica su torri di cristallo, cima dello stallo, pietra di corallo, margine compreso tra l'eterno e l'intervallo. High tech, piramide neurale, gerarchica potenza che s'allunga in verticale, sale, sale, sale in quanto tale, mente delle menti, parabolica mentale, fly tech. Dedalo di Dio, incubo incubato nella replica dell'io. Io, io, metrica binaria, macchina di corpi, catalessi volontaria. T'hanno detto che sei una persona libera, non t'hanno detto che sei libera di crederci. Apri gli occhi, non c'è niente che ci mitiga, è il Matrix di un sistema pronto a venderci. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio, è un incubo incubato nella replica dell'io. Mondi modellati da modemercati, autori di atrocità attuano attentati. Tecnologia tiranna che ti toglie tutto il tempo, revisiona la realtà, raramente rende il resto. Inutile ignoranza, intralcia l'inventiva. X è la variabile di un mondo alla deriva, la verità è recidiva. Quando X è la variabile di un mondo alla deriva, movimento mentale mette il mondo in moto, attendo autonomia, si annaspo nell'assettico, teatro del torbido, travolgo il tetto in toto, reietto per le rate, rivendico reddito, intelligenza e indipendenza immerse nell'ignoto. X è l'incontro delle menti con cui medito, il metodo che rende tutto lecito. X è l'incontro delle menti con cui medito. T'hanno detto che sei una persona libera, non t'hanno detto che sei libera di crederci. Apri gli occhi, non c'è niente che ci mitiga, è il Matrix di un sistema pronto a venderci. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio, è un incubo incubato nella replica dell'io. Terra ultimo atto, ci prepariamo all'impatto. Stiamo guidando contro mano ed io sto dando di matto. Stiamo perdendo fiducia, stiamo perdendo il contatto. Stiamo cercando una scusa, restiamo sotto ricatto. Codici binari, messaggi subliminali, subumani si trascinano in scenari artificiali. I sogni sono rari, sì, gli incontri occasionali, testa e mani resi vani da circuiti e macchinari. Spazi immensi ormai sommersi sotto i fumi di città. Camminiamo sopra funi, qui ci manca gravità. Qua siamo acrobatici, scriviamo i vostri ostacoli, scriviamo versi immersi nella corte dei miracoli. I vostri oracoli li butteremo giù con filosofia zen e colpi di kung fu. Lo sguardo sempre su, comunità tribù, viviamo il sottosuolo e respiriamo dal bambù. T'hanno detto che sei una persona libera, non t'hanno detto che sei libera di crederci. Apri gli occhi, non c'è niente che ci mitiga, è il Matrix di un sistema pronto a venderci. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio è un incubo incubato nella replica. Quando lo flippo solo al core con il nano, con il signor K, LHHM immersi nella K. Faccio questa merda 24H, tappa dopo tappa, stappa grappa, manco fosse acqua. La vita mia è un film di Romero, che mischia l'MD nel pampero. Mostri vogliono lo scalpo d'ogni straniero, nella città alzeranno piramidi d'oro nero. Fa freddo gelo, che sembra la guerra di Piero dentro Matrix. Ce l'hai presente Matrix? Macchina cosciente, nato da sette madri. Lo spiro intanto vuole imbrasare a casa dei ladri. Punta all'odio che canto, che uccide i fascisti alla Vudicatri. Yeah, LHHM, sputiamo veleno da qualche tempo fa. È vero adesso siamo di meno, ma fra che tocca fa? Questa è la realtà, io c'ho ancora sto micro che fa blo, blo, blo. T'hanno detto che sei una persona libera, non t'hanno detto che sei libera di crederci. Apri gli occhi, non c'è niente che ci mitiga. È il Matrix di un sistema pronto a venderci. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. È un incubo incubato nella replica del Dio. Civiltà malata, cerebro sdrogalata. Rata dedo spata sangue sulla povertà. Politicante sinfami che vive dell'obrero. Non mi quito il sombrero, senza dignità. Videocamere indiscrete, sin privacità. A chi te vigila controlla la tua libertà. Senza pietà, e già non te das cuenta. E se te molesta llamas a la autorità. Popoli schiavizzati, metodo occidental. Sionismo de mierda come Coca-Cola Light. Pioggia chimica che moja tu cara. Te fumiga il cucaracha, baby don't cry. Pulizia etica, muro de cemento. Somos todos peligrosos, Free Palestine. Islamofobia, cabias humanas, pancartas pintadas, fanculo Erdogan. T'hanno detto che sei una persona libera, non t'hanno detto che sei libera di crederci. Apri gli occhi, non c'è niente che ci mitiga. È il Matrix di un sistema pronto a venderci. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. High tech, metrica di Dio. È un incubo incubato nella replica del Dio. Abbastanza facile da capire. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé. Ed eccoci tornati in voce ad Entropia Massima. Parliamo di estrattivismo dei dati. Nella prima parte abbiamo fatto un po' un'introduzione e abbiamo parlato un po' di questa nuova economia dei dati, del capitalismo della sorveglianza. Ma è tutto così virtuale o c'è del fisico? In questa seconda parte proviamo a esplodere questo tema. Sì, esatto, nel senso abbiamo detto come un merito di questo pacchetto europeo sia quello di ricordare aspetti anche se vogliamo potenzialmente deteriori dell'attuale economia digitale. Un esempio pratico che viene in mente, che è utile ricordare, è quello che a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno, no? Cos'è accaduto nell'ultimo anno? Nell'ultimo anno diciamo c'è stato un rapidissimo una rapidissima diciamo accettazione di un'istanza di pass digitale, indipendentemente dal motivo per cui questo pass digitale è stato creato. Quindi questo non ci interessa in questa sede. L'aspetto importante qual è? È quello che in maniera del tutto naturale è stata accettata di fatto una transizione dal mondo virtuale al mondo reale. Cioè, che cosa è successo? È successo che nello stesso modo in cui quotidianamente noi utilizziamo degli account con delle credenziali che ci identificano in modo univoco per accedere a servizi, no? Online, per poi quindi produrre quei dati che sono necessari a tutto il ciclo che dicevamo prima. Ecco, nella stessa misura quello che è stato fatto con il rilascio di un pass digitale è stato mutuare questo approccio alla vita reale. E quello che è stato prodigioso è che in tempi relativamente rapidi, diciamo, nel mondo occidentale è stata messa in piedi, era già in piedi, ma insomma è stata rodata ed affinata un'infrastruttura in grado di fare cose, in grado di raccogliere osservazioni dal mondo reale. In questo caso era l'avvenuta o meno vaccinazione, ma ripeto, non ci interessa la specifica istanza. Si raccolgono misurazioni ed osservazioni dal mondo reale, si analizzano queste misurazioni con degli algoritmi di analytics e si autorizzano gli utenti finali, i cittadini in questo caso, alla partecipazione alla vita reale attraverso dei terminali che sono i nostri meravigliosi smartphone. Allora, l'aspetto che diciamo è interessante è proprio questo, perché sull'analisi di quello che si diceva prima, questa esperienza, no, ancora in corso, diciamo, che è maturata nell'ultimo anno, è un ulteriore segnale della direzione che è nell'interesse di un'economia digitale basata sull'estrattivismo del dato. E la ripercussione, diciamo, di questo percorso è esattamente quella che dicevo, cioè il fatto di mutuare anche nel mondo reale, anche per la vita lontana da uno schermo, lo stesso approccio. Ecco, questa facilità di cui parli probabilmente ci dice qualcosa anche sulla capacità di resistenza che abbiamo rispetto a certi meccanismi. Sì, esatto, che sostanzialmente non c'è, non, cioè, pervenuta. Nel senso, che non è pervenuta, nel senso che ovviamente quello che è stato interessante, diciamo, agli occhi di chi magari osserva questo fenomeno perché è parte della sua professione, è stato il fatto che non c'è stata un'osservazione di questo tipo, cioè un'osservazione che dicesse: ma guarda un po', cioè è stato tutto così semplice, no? Cioè, una cosa estremamente semplice. Perché è stato così semplice? Perché noi siamo totalmente permeati da questo modo di operare. Cioè, ogni giorno per noi lavorare con degli account, rilasciando senza problemi dati di ogni genere, è una cosa consolidata, è una cosa che fa parte integrante della nostra esistenza. E allora l'aspetto, diciamo, che mi piace sottolineare in questo caso è una critica a questo, soprattutto perché le poche voci che hanno cercato di dare visibilità a questo approccio sono state, vengono oggi tacciate di tutto quello che sappiamo, no? Di complottismo, di terrapiattismo, no? Allora, in realtà, se si ascoltano che, voci... Che in parte c'è, no? In parte è comune. No, certamente, ma... In parte è presente, però, ma non, certo, però vengono associate, esatto, no? Però, ripeto, senza volermi allargare, restando nello specifico proprio di questo tema, se si ascoltassero persone che sono di assoluto spessore, no? Tu citavi Shoshana Zuboff, io potrei citarne molti altri, tra cui ad esempio il professor Stuart Russell, su cui abbiamo studiato intelligenza artificiale qui a ingegneria. Ecco, questi personaggi che sono tutt'altro che lontani da un approccio scientifico profondo, di scienze dure, di scienze matematiche, ecco, costoro sono tra le poche voci che hanno cercato di dare visibilità e di avere un aspetto, diciamo, di una posizione critica fondata. E allora, di nuovo, no? Ancora una volta, per tornare al punto iniziale, ben venga una iniziativa che comincia in qualche maniera a porre un freno, no? E se vuoi, tra un po' entriamo comunque un pochino più nel merito. Direi che ci siamo, possiamo entrare, cominciamo a... Sì, allora l'elemento interessante, diciamo, di questo pacchetto qual è? È essenzialmente, diciamo... Parliamo quindi del DMA. L'aspetto interessante è duplice, esatto. Cioè, allora, il discorso è... Il DMA in senso molto, diciamo, a livello molto alto, che cosa fa? Cerca di arginare la situazione a livello economico. Perché che cosa fa? Fondamentalmente cerca di ostacolare, di frenare la potenza e il potere economico di oligopoli. Ok? E quindi cerca di favorire un aspetto che è importante in economia, che oggi è completamente assente nell'economia digitale, cioè la concorrenza. Ok? La competizione, okay? Ciò che fondamentalmente favorisce innovazione. Allora, cosa fa? Diciamo, vediamo alcuni punti importanti. Il primo passaggio è quello di limitare il gatekeeping. Che cos'è il gatekeeping? Il gatekeeping è una posizione dominante in un segmento di mercato. Allora, pensate oggi alla ricerca online, no? La ricerca online si può fare in vari modi, ci stanno molti motori di ricerca. La ricerca online oggi è Google. Oggi pensare di cercare qualcosa online per... l'uomo della strada è Google, eppure esiste Ecosia, esiste DuckDuckGo, esistono molti altri motori di ricerca che non hanno spazio. Pensate all'email, oggi è dominata da Gmail. Pensate allo streaming online, ancora una volta un prodotto Google, YouTube. Pensate ai social media, ovviamente Facebook, oggi Meta la fa da padrone, okay? Allora, queste sono tutte posizioni. Il retail online è Amazon, okay? Quindi questo aspetto è un aspetto che viene ostacolato, viene delimitato bene. Non si possono avere posizioni di gatekeeping. Okay. Secondo aspetto, Oggi, fondamentalmente, come dicevamo prima, l'estrattivismo dei dati richiede una continua ricerca di materia prima. E quindi ci sono situazioni nelle quali, ad esempio, realtà molto grandi, pensiamo a Facebook che detiene e ha acquistato WhatsApp, sono in grado di combinare i dati, no? Di WhatsApp con Facebook, sono stati in grado di farlo, sono in grado di farlo certamente. Bene, questo viene proibito. Quindi non sarà più possibile da parte, diciamo, di una compagnia che ha più servizi combinare diversi dati. Ma ancora di più, una cosa importante che si richiederà sarà la garanzia di pieno accesso ai dati, quindi in termini di rilascio, di autorizzazione, di controllo, da parte di utenti e compagnie. Viene riconosciuto un diritto alla proprietà dei dati, che fino ad oggi sembrava scontato, non lo è mai stato, non c'era una proprietà dei dati. Questo atto lo riconosce, e questo è importante. L'apertura, l'interoperabilità. Viene richiesto che ci sia una possibilità di accedere ai dati dei servizi di ciascun player, di ciascun grande player. In questo modo, se voglio costruire un mio social media, posso accedere alla base dati che caratterizza Facebook, che fino ad oggi è stato l'unico attore dominante. E ancora, il divieto, per esempio, di veicolare in bundle, come si dice, altri strumenti, diciamo, in associazione ad uno dominante. Pensate a quello che succede, ad esempio, noi siamo genitori di bambini piccoli, no? Nell'ambito della formazione, no? Dell'istruzione. Oggi il Ministero italiano, nazionale, dell'istruzione si appoggia ad un soggetto esterno, un soggetto multinazionale straniero, con la Google Suite for Education. Questa Google Suite for Education è chiaramente trainata da Google Meet, che nella parte iniziale, per esempio, della pandemia, quando iniziava la DAD, era l'oggetto che gratuitamente Google, in maniera magnanima, ha elargito. Okay? Dall'anno successivo è entrata Google Suite for Education, e quindi adesso c'è Calendar, c'è Classroom, ci sono tutta una serie di altri strumenti che, guidati dal cavallo di Troia Google Meet, diventano uno standard de facto. Ecco, questo viene vietato dal DMA. Ancora, immaginate la situazione che c'è con i servizi di intermediazione online, no? Per esempio, pensate a Google Player ed App Store. Quello che si chiede è che ci sia un'apertura a più servizi. Oggi l'unico modo che c'è per veicolare una idea attraverso un'app è attraverso due, diciamo, canali. Questa cosa il DMA in qualche modo cerca di sanarla. E così ancora si richiede che vengano fatti controeffettuati. Parli praticamente dell'App Store. Dell'App Store e del Google Store, esatto. Okay. Del Google Play, dei due store che sono di proprietà esclusiva di due soggetti, non ce ne sono altri. E così come i controlli, per esempio, sulla preinstallazione e alcuni servizi. Pensate ai sistemi operativi, altro tema, altro mondo che oggi è completamente dominato. Android è un sistema di Google che è dominante, lo stesso vale per iOS, per il mondo Apple, sono due. Non posso pensare di avere e di ideare un sistema operativo alternativo, così come è accaduto tanti anni fa, e noi con Davide lo sappiamo bene, no? Con Linux, per esempio, no? Allora immaginiamo qualcuno che ha buone idee e voglia magari innovare, migliorare un sistema operativo per i dispositivi mobili. Oggi che chance ha? Nessuna. Bene, il DMA promette di dare possibilità anche a, anche in questo senso, e questo non è poco. Questo è sicuramente interessante. Io, quando ho fugacemente letto di queste iniziative legislative europee, ho letto la parola apertura, e allora, data la mia formazione, ho pensato, certo, che riguardava l'apertura del codice sorgente, e quindi che pensavo si alludesse all'obbligo per queste applicazioni di fornire il vero codice sorgente con cui sono fatte, in chiaro, in modo che si potesse effettivamente verificare che quello era quello che stava funzionando e non altri, e quindi escludere il rischio che ci fossero delle backdoor all'interno. No, mi sbagliavo, mi sono illuso. Ti sbagliavi però in parte, nel senso che ti sbagliavi con riferimento al DMA. Ma visto che hai fatto questa considerazione, mi offri, diciamo, lo spunto per parlare dell'altro pilastro del pacchetto, cioè il DSA, Il DSA, che è il Digital Services Act, va un po' nella direzione che dici tu, Davide. Ah, perché qual è l'elemento fondamentale? Diciamo, se da un lato il DMA cerca di prevenire concentrazioni monopolistiche o oligopolistiche economiche che saturano e bloccano la concorrenza e la libertà e la libera competizione sul mercato, dall'altra, con il Digital Services Act, si cerca di contrastare l'altro aspetto che è caratteristico di questa economia e di questi soggetti: l'opacità dei loro meccanismi operativi. È assolutamente voluto, nel senso che gli attori dominanti in questa economia hanno come principio fondante quella di mantenere all'oscuro chiunque del modo in cui riescono a trasformare quella materia prima estratta con l'imperativo, diciamo, dell'estrazione in modelli predittivi accurati. Allora, se lavori in Google ti viene chiesto di non rivelare a nessuno le cose che fai in Google, ed è parte del contratto di lavoro. Allora da un lato, per noi che lavoriamo su questo genere di cose, c'è da dire che è anche molto complesso, cioè qui c'è un tema, per esempio, di interpretabilità dei modelli che non è facile, soprattutto quando il modello diventa molto complesso. Per esempio, modelli che si appoggiano a delle reti neurali profonde, come si dice, sono estremamente difficili da interpretare e da spiegare. Ma dall'altra c'è una voluta, come dicevi te, attitudine al mantenimento dell'opacità e della chiusura. Allora, il Digital Services Act interviene qua, perché il Digital Services Act che cosa fa? Obbliga questi soggetti a rivelare ai regolatori i meccanismi di funzionamento degli algoritmi alla base dei loro servizi. E questo è un primo punto importantissimo. Il secondo, e questo è micidiale. Perché ovviamente credo saranno molto contenti. È per questo che, nonostante si tratti, capito, di un'iniziativa, se vogliamo, tra virgolette, riformista, perché proposta da un'istituzione ufficiale, questa di fatto è rivoluzionaria, no? Se ci pensiamo. Il secondo è, per l'utente finale, per il general public, diciamo, per il pubblico generale, è l'obbligo di spiegare a chiunque voglia avere questa spiegazione in termini semplici, chiari e attraverso un interlocutore umano, quindi non attraverso i meccanismi automatici che oggi caratterizzano. Se avete un problema con un account su Twitter, provate a interagire e a spiegare la situazione, idem per tutti gli altri. No, qui c'è un obbligo di spiegare a chiunque in termini semplici e chiari come si è oggetti, ad esempio, di una microtargetizzazione. Perché ho ricevuto quell'ad? Perché ho ricevuto quel contenuto? Me lo devi spiegare. A che segmento appartengo io e perché? Quale algoritmo mi ci ha messo e perché? È potente questa iniziativa. E ancora, quello che si diceva prima, la garanzia che vale anche per il DSA, quindi la garanzia di pieno controllo sui dati personali. Ok? E soprattutto il fatto di cercare di andare in una direzione di un approccio, e questo è interessante a livello operativo, che potrà essere magari la parte con cui concludiamo, no? Il fatto di favorire per l'utente un approccio opt-in piuttosto che opt-out. Io parto da una situazione nella quale sono tutelato. Rifiuto tutto di default. Esatto. Se voglio qualcosa, te lo dico esatto. Io non ho più la questione di dover scegliere reject all, ma accept all, perché di default sarà reject all. Okay. Quindi questo è un altro aspetto importante. E poi il discorso che facete sull'apertura. In questo caso, diciamo, il tema che è certo è sull'apertura dei dati, e questo è un elemento che è fortemente dibattuto. Cioè, aprire a ricercatori, in questo caso per il momento ancora di istituzioni autorizzate. E qui c'è una battaglia politica molto forte, attivisti che sono, diciamo, arrabbiati per questo, perché vorrebbero l'apertura a qualsiasi ricercatore indipendente. Io sono d'accordo con loro su questo. Aprire l'accesso ai dati per capire quali dati ci stanno e qual è d'altra parte i dati sono nostri, è la nostra materia prima, quindi entrare nel merito di quello che succede con quella materia prima e come viene trasformata. Quindi qui c'è l'elemento dell'apertura ai dati e anche degli algoritmi, no? Per quello che si diceva prima, nel senso che qui c'è un passetto in più, perché prima si diceva mi devi spiegare come funziona l'algoritmo, qui mi devi aprire proprio l'algoritmo, che è quello che dicevi te. Questo è un passaggio che ancora, diciamo, va perfezionato. E in ultimo, diciamo, questo aspetto che dicevo prima, che riguarda il customer service, cioè il fatto che oggi, se io voglio interagire con un soggetto big tech, non posso farlo interloquendo con un essere umano che mi spieghi in termini semplici. Ecco, questo invece è richiesto. Allora, anche qui la portata, quindi, come vedi, va un po' nella direzione che dicevi te. Insieme questi due, diciamo, strumenti rappresentano secondo me un passaggio importante, perché è un passaggio che, come si diceva prima, enfatizza aspetti che sono aspetti, se vogliamo, potenzialmente deteriori per istituzioni democratiche, no? Per principi fondamentali, e dall'altra intraprende delle azioni pratiche, come si diceva. Sì, indubbiamente sono di interesse, anche se chiaramente è ovvio che delle iniziative legislative europee avranno un piglio riformista, ci mancherebbe altro, questo è il mestiere degli stati e degli organismi sovrastatali, però in effetti proprio questo intervento, diciamo che porta alla ribalta tanti punti critici che noi osservatori, insomma, in questi anni abbiamo mosso e che adesso effettivamente diventano di dominio pubblico corrente. Quindi questa è comunque una notizia importante, positiva, insomma, del resto mi viene da dire anche in Unione Europea c'è una tradizione giurista molto forte. Bravissimo, ed è anche l'espressione, se vogliamo, di una cultura tipicamente europea, diciamo, non a caso diciamo l'Europa da questo punto di vista è stata un po' pioniere, no? Noi siamo figli di una cultura kantiana, di una cultura cartesiana, no? Basata sul ragionamento, sull'analisi, no? Sull'approccio critico, okay? Allora, ancora una volta, l'altro aspetto che mi viene in mente adesso che parlavi, qual è? Quello che, passando un'iniziativa legislativa importante ufficiale come questa, viene sdoganata anche la posizione di critica nei confronti di uno scientismo al quale ormai siamo sovraesposti, no? E quindi, ripeto, quello che si diceva prima, no? Il terrapiattismo, l'accusa di complottismo, no? Quando si muove una critica a una soluzione tecnologica, magari perché la si studia, la si conosce e ci si lavora ogni giorno, ecco, questa viene completamente azzerata dal fatto che esiste un riconoscimento ufficiale da parte dell'istituzione che tutela ogni cittadino europeo. Perfetto, siamo arrivati dunque alla chiusura della seconda parte della trasmissione e ci ascoltiamo un brano a tema menti criminali, tempo violento. Di polizia, regnano ignoranza e ipocrisia. Senti le menti contro la tua apatia. Tempo violento, tempo di pandemia. Tempo violento, tempo di isteria. Cerco una metrica per questa epoca isterica. L'anima è sempre la mia fida, guida la mia erica. Soffoco nel vento di questo maledetto tempo che non ci merita la falsità sistemica. Prosperità pandemica, rete neurale endemica. Intelligenza artificiale asettica. L'anno scorso tutto andava storto. Levatevi, levatevi, levatevi di torno. Nelle vie come fantasmi, ma in pieno giorno. Divisi tra le divise, trasmati come pongo. Un altro lutto già ci toglie il sonno. O che ti canto, mille morti al giorno. Cancellati in 24 ore. Tipo una storia, pesca la tua carta. Gioca oppure muori. Tempo violento, tempo di pandemia. Ogni stato è uno stato di polizia. Regnano ignoranza e ipocrisia. Senti le menti contro la tua apatia. Tempo violento, tempo di pandemia. Tempo violento, tempo di isteria. E intanto fuori nella realtà reale, le strade vuote di una città spettrale. Tutto normale. Il braccio criminale della legge, la sua finta etica. Stavolta qua ci vuole una rivolta. Non basta la polemica, ascolta la parola della vecchia scuola, che non è mai morta. Eretica come una volta estetica. Come ogni lotta, tempo di tornare nelle strade. Tempo di replica. Sarà virale in questo buio. Sarà uno sparo. 20-21 entra nei ring. Il destino è baro. Fragile come stima vecchia scuola. Parlo chiaro. Noi persistenti, dementi, over quarantenni. Che ti lamenti, le scelte tu, i tuoi tiranni. Non t'accontentare di limitare i danni. Che ti lamenti se punti a pareggiare nella vita. Sai che perdi, riparti da zero. Cancella i tuoi ricordi. Quanta gente fuori solo, spacciatori in erba. Mille politici che parlano, raschiano merda. In cerca di soluzioni, la città che prega ancora i nostri morti. Tempo violento che verga tutti i quartieri vuoti e code in farmacia, biglietti fantasie, volti spenti, mascherina, falsa la fede, i finti contratti di china, falsa come queste cure dopo il cambio di clima. Criminali pagati allora, questi finti guest, tornate a scuola, quarantenne in case chiuse, non escorto, più non esco, ma manifesto. Io nel contempo di pandemia, ogni stato è uno stato di polizia, inviano ignoranza e ipocrisia, sentimenti contro la tua apatia. Odio nel contempo di pandemia, tempo violento, tempo di isteria. Un progetto volto a fiaccare l'umanità, mettere in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria, un'avventura cibernetica. Cosa volete che sia il mondo nuovo, no? Dove noi saremo tutti dei zombie? Eliminare tutti quelli che non stanno a questo gioco. Perché il demonio agisce con, attraverso gli uomini, quindi delle menti criminali, hanno realizzato questo progetto. Ed eccoci qua, torniamo in voce dentro Via Massima, parliamo di estrattivismo di dati. Abbiamo visto nella prima della pausa musicale un po' queste iniziative legislative europee, comunque interessanti. Adesso cerchiamo di arrivare a dire qualcosa in più, come è giusto che facciamo da questi microfoni, no? Quindi cerchiamo di portare un po' il discorso sul culturale, politico, e diamo anche, insomma, conto di quello che potrebbe essere un nostro orizzonte politico in qualche modo, no? Beh sì, diciamo che chiaramente il discorso fatto finora è un discorso in cui abbiamo capito che nell'assenza di tutto, nel senso, per 20 anni l'economia attualmente dominante sul pianeta non ha avuto limiti, non ha avuto nessun tipo di vincolo, okay? Nessun tipo di... L'elemento, diciamo, normativo è incoraggiante, perché, come dicevamo, riconosce a livello istituzionale che esistono dei problemi, che esiste una tensione tra l'esaltazione della componente economica e i principi fondanti delle democrazie. Tuttavia, diciamo, a partire da questo, a partire quindi da questo perimetro legislativo che già in qualche maniera mira a cominciare, no, a porre dei paletti alle attività e quindi a questa economia esasperata, questa economia neoliberista esasperata, l'altro elemento importante è l'azione di ciascuno, una forma di attivismo, se si vuole pensare ad un cambiamento, se si vuole accelerare ulteriormente il processo di cambiamento. In qualche misura è possibile affiancarsi alle iniziative istituzionali facendo frizione, creando, diciamo, ponendosi come sabbia negli ingranaggi di un meccanismo che in ultima istanza ha favorito e continua a favorire diseguaglianze, perché il capitalismo di per sé crea divari, ma questo tipo di capitalismo ha creato divari come mai nel passato, divari tra chi possiede tantissimo. Parliamo di realtà economiche che hanno un apprezzamento di una capitalizzazione di mercato nell'ordine dei trilioni di dollari. Ecco, il dato che riporto è il fatturato di Google del 2021, che è pari a 257 miliardi di dollari o euro, vabbè, siamo là. Certo, certo. E sì, sì. Con un utile di questo in crescita del 40% rispetto all'anno precedente, e un utile netto dopo le tasse di 90 miliardi, no, 80 miliardi, in crescita del 90% sì. rispetto all'anno sì, precedente. Sì, diciamo, questi... Sono dei volumi che sono paragonabili al prodotto interno lordo di alcuni stati importanti come il Portogallo o la Turchia. Esatto, questo ancora una volta sottolineando che la materia prima che alimenta questi volumi finanziari ed economici è gratuita e utilizzata senza permesso. L'aspetto che mi ha ricordato Davide adesso dando questo numero era un aspetto relativo al fatto che voleva completare il discorso, diciamo, di nuovo delle istituzioni, le sanzioni, perché abbiamo parlato di cosa prevedono questi, cosa prevede questo pacchetto di leggi. Prevede anche delle sanzioni molto importanti. Questi valori di cui Davide parlava, che vi ha accennato, quindi questi valori che parlano di fatturati nell'ordine delle centinaia di miliardi di dollari o di euro all'anno. Bene, questi nel caso di infrazione delle regole stabilite dal pacchetto di cui si parlava prima, bene, le multe saranno nell'ordine delle dai 10 ai al 20% di questi fatturati. Quindi stiamo parlando, partendo da 250 miliardi, arriviamo sostanzialmente a 25-50 un quinto, esatto, che è importante, sono qualche diciamo, manovra finanziaria, insomma, diciamo, è abbastanza importante. Quindi diciamo, però, per tornare, quindi in aggiunta a questo, un aspetto che cerchi di ribilanciare è l'aspetto in cui ciascuno di noi prende un'azione, prende consapevolezza, acquisisce coscienza. Va benissimo tutta l'utopia che ci viene venduta, ma è anche importante quello che si diceva prima, l'approccio critico, un approccio nel quale ci si domanda se abbiamo realmente bisogno di tutto questo e se abbiamo realmente bisogno di giustificare con la nostra accettazione passiva questo tipo di situazione. Allora, diciamo, spesso no, ci vengono rivolte a noi che insomma siamo un po' compagni che ci muoviamo in questo terreno diciamo tecnologico, ci vengono richieste delle alternative e io sono anche un po' seccato da queste richieste, perché non diciamo la risposta più giusta è: ma come pensi che noi possiamo competere con economie di questo tipo, senza fare quello che fanno loro, cioè senza fare surplus comportamentale, e quindi senza tirar fuori da questi dati quello che serve per controllare le persone, monitorare le persone, indurre il comportamento delle persone, eccetera. Non posso. E io aggiungo anche un elemento a questo, no? Il discorso degli utenti, cioè nell'ultimo ventennio chi ha proposto questi servizi digitali lo ha fatto rivolgendosi a degli utenti, ci hanno ridotto a degli utenti, e questo è sbagliato, noi non possiamo essere solo utenti, esatto. Noi dobbiamo conoscere queste tecnologie il più possibile a fondo, e dice: ma è molto difficile, ragazzi, si fa tutto, non è che ci organizziamo ognuno un pezzo e ci studiamo, sì, le cose, del resto qualche cosetta l'abbiamo imparata in questi anni anche da utenti, no? Quindi perché non fare l'ulteriore passaggio insieme di studiare queste tecnologie e di proporre insieme un'alternativa? Non arriverà nessun mago a proporvi un'alternativa se non lo faremo noi in prima persona. No, esatto, se deve esserci una nuova forma, chiamiamola, di lotta di classe, no? In cui l'utente, diciamo, l'individuo, ecco, ho usato anch'io la parola utente, ma l'individuo acquisisce un potere per cercare di cambiare la situazione. Questo è proprio attraverso la conoscenza, attraverso l'approfondimento di ogni meccanismo, quindi è l'atteggiamento critico che parte da domande: come funziona tutto? Ma che cos'è che io sto, che contributo sto dando? Ok? Allora, l'elemento, diciamo, culturale è la leva più forte che può in qualche maniera cercare di ribilanciare la situazione, ok? Ed è sicuramente l'unico aspetto, in conclusione, che può, da un certo punto di vista, sollevarci da una situazione oggettivamente degradante alla quale siamo giunti, perché quello che Davide diceva lo condivido in pieno. A tutti gli effetti, coloro che sono gli attori principali di questa economia non hanno alcun interesse nei confronti delle persone come individui, hanno interesse per le persone soltanto come fonte di materia prima. E questo io lo trovo profondamente degradante. Si fa anche spesso l'analogo con la mungitura. Esatto. Quindi Homo sapiens, esatto, ridotto a un animale, esatto, di allevamento, esatto, da cui mungere dati. Esatto, quindi una lettura, diciamo, che se vogliamo noi stiamo offrendo, che è una lettura in effetti molto critica, no? In affiancamento alla lettura che invece è proposta sempre, propinata sempre, no? La nuova utopia, il nuovo servizio, la nuova soluzione. Quanto serve questa nuova soluzione? Qual è il costo vero di una nuova soluzione in termini umani, in termini di umanità, in termini di ciò che caratterizza l'essere umano? Queste sono domande alle quali si può cercare di dare una risposta informandosi. Allora è ovvio che non tutti possono diventare esperti di analytics per capire che dietro il funzionamento di un modello predittivo c'è necessità di estrarre dati e di trattarli in un certo modo. Però acquisire la curiosità di approfondire, di confrontarsi magari con esperti su questi temi, questo può essere diciamo evocato, ed è un po' anche un nostro auspicio. Ma certo, è anche il motivo per cui facciamo queste trasmissioni.